140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco i protagonisti dell'intervista di oggi di 140 caratteri. The Walt Disney Company, Milano. La storia d'amore tra due vulcani nel corto Disney Pixar Lava che precederà il film Inside Out. Le voci Malika Ayan e Giovanni Caccamo. Beh, non posso non chiedervi che cosa si prova a doppiare con la voce la canzone di un corto Disney, perché credo che le cose più belle della vita siano dar la voce a un cartone animato, essere disegnate con un cartone animato e addirittura cantare in un cartone animato. Top assoluto. Infatti tombola. E, guarda, dal momento in cui Disney si è sempre mostrata, io sono stata papera e adesso canto la vulcana, come hai detto tu prima, sono vulcana, quindi va da Dio, direi che non ho molto altro da chiedere. Beh, poi vedere l'anteprima, cioè il film in anteprima nella sala proiezioni privata, cioè, non lo so, sono tornata a casa a farmi invidiare dalle ragazze proprio. Con fazzolettini annessi, portateveli, sì, sì, perché sì. Insomma sono assolutamente necessari. Ma perché io pianto, adesso sono qua che faccio, ma ho pianto vedendo la storia di Lava. Però hai anche riso un sacco, no. Ma non diciamo come finisce, chissà se questi due vulcani. Questi due vulcani si ameranno, chissà. Ce la faranno? Scopritelo andando al cinema il 16 settembre. Preparatissimo. Come avete lavorato su questa canzone? È molto bella, è molto dolce, ha delle armonizzazioni bellissime. Come avete lavorato? Ma secondo me un po' ci ha salvato il fatto di essere entrambi mostruosamente in ansia, perché in questo modo siamo riusciti a dissimulare il nostro terrore di fronte alla sala del doppiaggio. Una delle scene più comiche, ovviamente, sul treno, in cui abbiamo ripassato il testo e non potevamo cantare ad alta voce perché ovviamente era la carrozza silent, insomma, quindi silent, quindi ecco, vabbè, però comiche. La cosa che io sogno di più è che qui con me ci sia anche tu. Io chiedo un amore che il cuore mi avvolga, ecco, come Lava lo sciolga. La cosa che io sogno di più è che qui con me ci sia anche tu. Io chiedo un amore che il cuore mi avvolga e come Lava lo sciolga. Tu hai familiarità con i vulcani da siciliano? Ma abbastanza, sì. Io sto ancora più giù, quindi è quasi Nord Africa, però l'Etna diciamo che influenza sicuramente l'aria. E invece tu hai una bimba ormai grande, però immagino che sia una bella cosa poterla portare poi al cinema e dire... Senti qua. Oh, ma ieri quando sono tornata a casa dopo aver visto il film per prima, è stata la volta in cui forse me la sono tirata più di tutta la mia vita. Cioè proprio l'ho guardata e l'ho detto, tu non sai cosa ho fatto stamattina. E non vedo l'ora, mi sento così orgogliosa di poter fare una cosa che rientri in quella che è la sua sfera di interesse. Perché poi era una cosa che io quando avevo la sua età sognavo tantissimo. Mi immagino, perché guardavo i backstage di Gino Paoli nella Bella e la Bestia e dicevo anch'io un giorno... avrò il video di backstage in cui canto una canzone. L'avete fatto? Chiaramente. Sì. E noi cioè... sembriamo, non lo so, sembriamo allora, i turisti. Aspetta, rifacciamolo, sai. Esatto. Quelli che si posano davanti alla Torre di Pisa. Forse già domani, e questo è solo un sogno, non è stato male. Ma se lo vuoi, rimani, e troveremo un senso noi che non cambieremo. nostalgico presente. Non desiderare, non desiderare. Devo solo chiedervi come è stato ancora lavorare insieme, perché avete fatto una cosa bellissima a Sanremo, non solo cantando tu una canzone sua splendida, ma addirittura poi cantandola insieme nel dopo festival. Com'è prendervi ancora per mano? Ma secondo me è molto importante, anche perché la prima cosa che mi ha insegnato Caterina appunto è crea connessioni, quindi quando mi mandò la musica di Adesso è qui, capì subito che c'era qualcosa di molto forte da costruire insieme a Giovanni, tanto che appena ho ricevuto la telefonata con l'occasione di cantare questo corto non ho avuto dubbi su chi portarmi dietro. Meno male che esistono artisti così, questa è la cosa che dico. È la mia pensione, in verità. No, io veramente sono estremamente e profondamente grato a Malika per tutto quello che ha fatto per me. Che ho fatto io? Sorrisi, silenzi per cena, conoscersi, esatto, fare i vulcani, insomma. Cantare direi che c'è... i vulcani. Esatto. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Malika Ayan e Giovanni Caccamo. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.